Letture di Radio 24. Nel 1907 la giovane Theodora Bosanquet viene assunta come segretaria da Henry James, con il compito di battere a macchina i romanzi che lui le avrebbe dettato. Rimane con lui fino alla morte dello scrittore, avvenuta nel 1916. 8 anni dopo pubblica un libro nel quale raccoglie i suoi ricordi di quel periodo, offrendo ai lettori l'occasione di vedere da vicino lo scrittore al lavoro e di conoscere le sue abitudini e le sue passioni. Molti uomini, la cui prima occupazione sia l'arte della scrittura, trovano riposo e ristoro in altre attività. Si sposano o prendono un cane, giocano a golf o a bridge, studiano il sanscrito o collezionano francobolli. Escluso un periodo in cui fu padrone di un bassotto, Henry James non fece nessuna di queste cose. La sua vita era consacrata al servizio di una dea gelosa, insaziabile ed estremamente gratificante, e tutte le sue attività erano essenzialmente riferite a questo servizio. Credeva fermamente nelle virtù dell'aria aperta e dell'esercizio, ed era esperto nel fare passeggiate di 2 o 3 miglia che duravano ore per via della sua abitudine di interrompere il movimento con frequenti e prolungate soste per meditare o conversare. Amava l'euforia di un giro in automobile che gli dava, come diceva, la sensazione di un'avventura spirituale. Gli piacevano le compagnie loquaci. Si può dire che il suo unico svago fosse coltivare le amicizie. Fino alla fine della sua vita fu rapido nel cogliere ogni opportunità di creare una relazione di amicizia, repentino nell'agire per il suo riconoscimento e meravigliosamente pronto a proteggere e nutrire la calda esistenza di un affetto appena nato. Le sue lettere, specialmente quelle scritte negli ultimi anni, sono più di qualsiasi altra cosa grandi e generosi gesti celebrativi che coinvolgevano e abbracciavano i destinatari, così come le sue parole coinvolgevano e abbracciavano coloro che le ascoltavano, inondandoli con il fluire della sua eloquenza. Ma la sua raffinata capacità di creare e mantenere una relazione funzionava ovviamente entro limiti ben definiti. Era obbligato a creare barriere invalicabili tra se stesso e il resto dell'umanità, prima di poter allungare le sue mani bramose oltre le mura di sicurezza per richiamare e benedire. Amava i suoi amici, ma era sempre condannato da una legge interiore a tenersi alla larga da qualsiasi rete di affetto ed esigenze umane che potesse realmente impigliarlo. I suoi contatti dovevano essere subordinati o comunque ancillari alla vocazione che egli aveva seguito con passione esclusiva fin da bambino. Henry James non permetteva a niente di interferire a lungo con il duro lavoro da cui non si riposava mai, se non forse durante il sonno. Quando il suo momento mattutino di lavoro creativo era finito, tornava all'assalto delle impressioni che se ne stavano sempre lì ad attenderlo. Era perennemente esposto e costantemente occupato dal crudele compito di assimilare le sue esperienze, separando il metallo lavorabile dal metallo vile, rimodellando il tutto per creare nuova bellezza, con l'aiuto di qualsiasi mezzo gli fosse offerto dalla sua arte. Egli non usava i suoi amici come materiale per la sua arte, come fanno alcuni artisti privi di ispirazione, ma come fonti per i suoi materiali. Prendeva tutto ciò che gli potevano dare e lo restituiva nei suoi libri. Con questa costante preoccupazione, era normale che a interessarlo meno fossero le persone relativamente poco loquaci. Essere incapaci di esprimersi era per lui il vizio capitale della società, che ai suoi occhi equivaleva a trattenere deliberatamente i tesori dell'esperienza altrui. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Theodora Bosanquet, Henry James al lavoro, Castelvecchi, 64 pagine, 9,50 €. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Letture di Radio 24. Lunedì scorso, alcuni antagonisti del collettivo universitario autonomo hanno fatto irruzione nell'aula dell'Università di Bologna, dove Angelo Panebianco, giornalista del Corriere della Sera e professore di scienze politiche, stava tenendo la prima lezione del suo corso Teorie della pace e della guerra. Gli attivisti hanno insultato il professore, chiamandolo assassino. La sua colpa? Aver scritto un articolo dal titolo «Noi in Libia saremo mai pronti?». Già un paio di anni fa, Panebianco era stato vittima di atti vandalici da parte di un altro collettivo autonomo, sempre in conseguenza di un suo articolo. Curiosamente, questi collettivi studenteschi si dichiarano antifascisti, ma poi utilizzano gli stessi metodi: uso della violenza per impedire ad altri di esprimere le proprie opinioni. Già negli anni 70 un professore universitario aveva definito fascisti gli autonomi che impedivano di fare lezione, come racconta Benedetta Tobagi in un editoriale pubblicato su Repubblica, dove paragona il blitz degli autonomi a un inutile replay degli anni 70. Come sono vecchi questi ragazzi? Gli striscioni, gli insulti, le accuse stereotipate e vagamente vetero, le scritte rosse sui muri, l'atteggiamento prevaricatore, lezioni interrotte, porte murate. È accaduto ieri a Bologna al professore Angelo Panebianco, ma sembra un brutto replay degli anni 70. Al compianto professor Guido Petter, docente di psicologia all'Università di Padova ed ex partigiano comunista, toccava di sentirsi dare del fascista da parte degli studenti dell'autonomia che gli impedivano di fare lezione. «Fascisti siete voi che mi impedite di parlare», replicava. Lo punirono a colpi di chiave inglese, sopravvisse per miracolo. Nel suo diario del 1978-79, pubblicato col titolo «I giorni dell'ombra», e in una lunga intervista rilasciata a Silvia Giralucci per il documentario «Sfiorando il muro», ha raccontato a Futura Memoria il clima opprimente di intimidazione di quegli anni, la goliardia degenerata in derisione umiliante, lo stillicidio delle scritte diffamatorie, gli insulti. Lo sanno i ragazzi del collettivo bolognese? Chissà. Sembrano non rendersi conto che così regalano all'odiato professore una clamorosa pubblicità gratuita e l'aureola del perseguitato. Probabilmente, se avessero abbastanza testa per capirlo, si sarebbero inventati piuttosto un pacifico e irresistibile sketch satirico stile Crozza da diffondere sul web. Oppure avrebbero organizzato un bel seminario per illustrare gli argomenti contro l'intervento militare, coinvolgendo qualcuno dei nostri brillanti cervelli in fuga come spunto polemico contro il baronato. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Benedetta Tobagi, Un brutto e inutile replay degli anni 70, dalla Repubblica del 23 febbraio. Queste sono invece le parole dello stesso Panebianco, tratte da un lungo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, nel quale il professore propone alcune riflessioni sull'aggressione subita. La democrazia è un regime molto fragile, che si regge sul fatto che in ogni momento la moderazione politica prevalga sull'estremismo. Se riescono a imporsi quelli che considerano l'altro un nemico anziché un avversario, allora la democrazia è agonizzante. Si tenga presente che la democrazia è prima di tutto e soprattutto un regime politico che, a differenza di tutti gli altri, risolve pacificamente le proprie dispute interne e pacificamente, con il voto, sostituisce i governanti di cui gli elettori siano insoddisfatti. Se e quando prevale l'estremismo, queste condizioni svaniscono. Ciò non significa affatto, naturalmente, che nelle democrazie più consolidate siano assenti correnti estreme. È normale e fisiologico che ci siano, senza che per questo la democrazia sia minacciata. Che quelle correnti diventino oppure no pericolose dipende da un insieme di condizioni. Possiamo forse limitarci a dire che nei momenti in cui, per esempio a causa di prolungate crisi economiche o di cambiamenti radicali nel quadro politico internazionale, si diffondono ansia, paura e insicurezza, allora c'è il rischio che quelle correnti si ingrossino. Ma ciò non basta. Occorre anche che l'estremismo sia sospinto da una cultura diffusa che ne legittima le azioni. Qui si colgono alcune differenze, ad esempio, fra l'Italia degli anni 70, gli anni che sfociarono nel terrorismo, e l'Italia di oggi. Allora c'era una cultura diffusa che legittimava la rivoluzione e un gran numero di cattivi maestri che dicevano a certi giovani «Vai avanti tu». Oggi quella cultura diffusa non c'è più, e anche i cattivi maestri si sono dileguati. Qualcuno, per la verità, ancora c'è. Un amico mi ha mandato copia di un articolo scritto da un collega che inneggia al manipolo di eroi venuti da me per impedirmi di parlare. Se questo è per noi italiani il vantaggio dell'oggi rispetto agli anni 70, occorre dire che c'è anche una differenza di opposto segno. Negli anni 70 c'era la guerra fredda e quindi un quadro internazionale stabile. Oggi, con l'Europa a pezzi e il Medio Oriente in ebollizione, siamo in un'altra condizione. Si dileguano uno dopo l'altro gli antichi punti di riferimento e paura, ansia e insicurezza inevitabilmente si diffondono. Un altro insegnamento di carattere generale riguarda il perché dell'estremismo politico. Perché ci sono persone che si rinchiudono volontariamente in quella prigione mentale costruita su frasi fatte e vuote, su truci e insensati slogan, su urla che devono nascondere agli occhi degli altri l'evidente paura del mondo che prova colui che grida. I percorsi individuali che portano verso l'estremismo sono i più vari e spetta agli psicologi esaminarli. Qui posso solo osservare che la politica è il luogo per eccellenza nel quale paure e frustrazioni individuali possono trovare una valvola di sfogo. Un'aggressività verso l'altro che non si autogiustificasse con argomenti politici apparirebbe agli stessi occhi di chi pone in essere il comportamento aggressivo come moralmente poco sostenibile. Invece, un'aggressività che si pretende guidata da motivi politici rende possibile l'illusione che si tratti di un comportamento nobile, guidato da alti ideali morali. La politica è da sempre il ricettacolo e la calamita di frustrazioni personali che vi cercano una qualche forma di legittimità, la quale a sua volta serva a giustificare odio e aggressività. Quello che avete ascoltato era un estratto dall'editoriale di Angelo Panebianco, Il pensiero libero e la tristezza di quegli slogan, dal Corriere della Sera del 25 febbraio. Mentre in Italia ci sono scuole dove è stato vietato il consumo di carne di maiale per non offendere la sensibilità degli studenti di religione musulmana, in Danimarca c'è una città dove invece la carne di maiale deve essere obbligatoriamente servita in tutte le scuole. La guerra delle polpette, così è stata ribattezzata l'iniziativa partita da un consigliere dell'estrema destra con lo scopo di limitare l'affluenza e l'influenza dei migranti, ha scatenato, come prevedibile, molte polemiche. Ma le paure che hanno fatto fare un passo indietro a un paese come la Danimarca, da sempre stato simbolo di accoglienza e tolleranza, sono condivise anche dal ministro dell'integrazione, che a proposito dei migranti ha dichiarato: «Ci siamo resi conto che una politica più rigida è premessa essenziale per la loro integrazione nella nostra società». Il provvedimento che introduce l'obbligo di servire carne di maiale nelle scuole e negli asili nido, sottoponendolo in linea di principio anche a chi non la può mangiare per motivi religiosi, è una novità assoluta, non solo a queste latitudini, neppure in Francia e in Italia, dove in passato le penisti e leghisti hanno affrontato la questione dei menù diversificati negli istituti, si era arrivati a una scelta così radicale. Succede invece in una città della tollerante Danimarca che vanta un welfare accogliente e statistiche che certo non fanno gridare all'invasione. Sui 780.000 migranti arrivati nel secondo semestre del 2015 nei 28 stati membri dell'Unione Europea, solo 13.000 hanno presentato richiesta di asilo al governo di Copenaghen. Ma è proprio da qui che lo scorso 3 gennaio è cominciato l'effetto domino dell'Europa sulla crisi dei migranti. La Danimarca è il primo paese che ha deciso la chiusura delle proprie frontiere, seguita a ruota dalla Svezia. Subito dopo ha approvato una legge che permette alla polizia di requisire denaro e oggetti di valore dei rifugiati. Randers, Danimarca. Nel suo piccolo è la riproduzione di quel che accade su scala nazionale dal 28 giugno 2015, giorno di elezioni che hanno consegnato una non vittoria ai liberali e il ruolo di ago della bilancia all'estrema destra. Da parte dell'avvocato difensore dell'Europa del Nord, tocca a Inger Stoiberg, ex giornalista e attuale ministro dell'integrazione. Non è vero che siamo cambiati. Noi, come gli svedesi, ci siamo resi conto che una politica più rigida sugli stranieri è premessa essenziale per la loro integrazione nella nostra società. Se vogliamo che il Trattato di Schengen sopravviva, bisogna controllare in modo severo le frontiere esterne dell'Unione Europea. Facciamo funzionare gli hotspot e la libera circolazione degli uomini tornerà a quella di prima. Non dipende da noi. Stoiberg nega l'influenza dell'estrema destra, ma le statistiche dicono che qualcosa è cambiato proprio in questi ultimi mesi. Ancora nel 2014, quando il governo era nelle mani di una maggioranza conservatrice ma autosufficiente, la piccola Danimarca era stata il quinto paese del mondo nell'accoglienza di richiedenti asilo in ordine alla quantità di abitanti, il secondo dell'Unione Europea per i profughi siriani. Quelli che accettiamo hanno diritto a una casa e a un programma di integrazione che prevede un posto di lavoro fisso, chiarisce Stoiberg. Quindi, se vogliamo mantenere il nostro generoso welfare, ci deve essere un limite alla quantità di profughi che possiamo ricevere. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Marco Imarisio, Polpette di maiale ai figli dei migranti, nella città dove finisce l'accoglienza danese. Dal Corriere della Sera del 22 febbraio. La Danimarca non è certo l'unico paese che sulla scia emotiva dei recenti attentati e degli stupri di massa di Colonia ha iniziato ad opporsi alla politica di accoglienza senza limiti invocata la scorsa estate dalla Germania, che ora però si lamenta se l'Austria non ferma il flusso dei migranti dalla Grecia. E ora la Slovacchia, paese governato da un monocolore socialdemocratico, si appresta a diventare il primo stato Muslim free europeo. Dopo aver rifiutato nell'estate del 2015 le quote di distribuzione di 120.000 profughi imposte dall'Unione Europea, il premier Robert Fico, così come gli altri leader delle nazioni che formano quella sorta di nuovo patto di Varsavia post-ideologico fondato sul nazional monoculturalismo, e cioè Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, ha annunciato la decisione di creare davvero uno stato Muslim free. Impediremo in ogni modo la formazione in Slovacchia di una comunità musulmana organizzata. Stiamo monitorando uno per uno gli islamici presenti nel paese. Dobbiamo sapere tutto di loro in ogni momento, ha detto ai primi di gennaio sull'onda dei fatti accaduti nella notte di Capodanno in Germania. Leggero brusio in sala stampa, ma Fico ha lanciato subito un messaggio immaginando possibili denunce per dichiarazioni xenofobe. Agli attivisti dei diritti umani consiglio di attendere alle conferenze sui diritti umani. Qui stiamo parlando di sicurezza. E il ministro dell'interno, Robert Calignac, classe 1971, braccio destro di Fico nel partito e nel governo, ha subito presentato un piano d'azione contro rischi di comportamenti intolleranti. Da parte del suo governo? No. Della destra estrema e populista. Con l'eccezione del massacro di Breivik a Oslo, tutti gli attacchi terroristici degli ultimi anni in Europa sono stati di matrice musulmana, ha detto Fico dopo le stragi di Parigi. Noi abbiamo il dovere di prevenire e impedire che questo accada in Slovacchia. Dobbiamo garantire la serenità della nostra gente. I migranti di religione musulmana non possono essere integrati. Punto. L'idea di un'Europa multiculturale è fallita. È pura fiction. L'integrazione non è semplicemente possibile. Tra l'altro, gli islamici non potranno mai trovarsi a casa loro in Slovacchia, che è un paese orgogliosamente cristiano, non contempla la costruzione di moschee e non ha i soldi per mantenerli. In Germania costano tra i 20 e i 30 mila euro l'uno all'anno. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Marzio G. Mian, a Bratislava, capitale del nuovo stato Muslim Free, dal Magazine 7 del 19 febbraio.